Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Negli ultimi decenni si sono aggiunte delle nuove vie nelle nostre città e ci sono persone che vivono in certi luoghi e non sanno neanche a chi sono dedicati, anche se magari si parla di personaggi importanti. Ve lo dico perché una quindicina d'anni fa, insomma nei miei anni più turbolenti, io accompagnai a casa una ragazza che mi disse: abito in via Che Guevara. Quindi che non sapeva neanche che si pronunciava Che Guevara. E quindi insomma questo per dirvi in che mondo viviamo e qual è il livello del nostro mondo. E a Roma Sud, tra la Pontina e la Laurentina, c'è una via che è stata intitolata a un signore che ha avuto un ruolo determinante nel mondo dello spettacolo italiano, un uomo di grande ironia che ha sempre raccontato con garbo e intelligenza i difetti, le manie e i vizi della nostra società, ci ha fatto ridere, ci ha fatto pensare parecchio. Bene, è stato fatto un esperimento, è stato chiesto alle persone che abitano in quella via se sapessero chi fosse quel signore e nessuno lo conosceva. Bene, il mio istinto di ribellione mi spinge a provare a colmare questa lacuna. Ci rivolgiamo a tutti, ma in particolar modo agli abitanti di via Luciano Salce a Roma Sud, perché vogliamo raccontare chi era il grandissimo Luciano Salce. Luciano Salce è stato un artista poliedrico, un attore, uno scrittore di sceneggiature, di canzoni, ma soprattutto è stato un grandissimo regista, ironico, intelligente. Anche quando ha diretto film di cassetta, lo ha sempre fatto con raffinatezza. Oggi, a distanza di tanti anni, coi suoi film dimostrano quanto fosse avanti rispetto agli altri nella sua epoca. Tenete conto, per chi non lo sapesse, che Salce è stato, tra le tante cose, il regista dei primi film di Fantozzi. Ascoltate cosa ha detto di lui recentemente Paolo Villaggio, che era intervenuto a una commemorazione dedicata proprio al grande regista Luciano Salce. Non mi stancherò mai di dirlo, lo dico sempre Emanuele, Luciano Salce è stata una delle persone più intelligenti che ho conosciuto, ed è la verità, non è una commemorazione. Cioè, chi l'ha conosciuto bene, diretta, sanno che lui era così intelligente che era terrorizzato dal mostrarsi, dal farsi vedere. Era vanitoso, però aveva un senso critico che era di un livello culturale anglosassone, medio-alto. E forse lui ha avuto meno fortuna di altri registi, che adesso non facciamo i nomi, che invece facevano delle cose incredibili, andavano alle mostre, andavano ai premi. Lui non l'ha mai fatto. Bene, che dirvi, io con Luciano ho fatto 7 film. Ho fatto Il Bel Paese, scritto da Pippolo, sì, e Castellano, che era molto carino, vero? Poi ho fatto la serie iniziale dei Due Fantozzi, che ho rivisto ultimamente il giorno di Natale, ed erano sinceramente deliziosi. Li ho trovati, un cinema ormai di culto. Eh sì, ha ragione Paolo Villaggio, non solo quando dice che i film di Fantozzi sono soprattutto i primi parte del cinema di culto, ma anche ha ragione nell'analisi che lui fa dell'uomo Salce. Mi piace quando parla di cultura e atteggiamento anglosassone, ma si vede che Paolo Villaggio lo conosceva molto bene. È vero, lui non era quel tipo di personaggio pubblico presenzialista, non era uno che amava parlare di sé, era molto autoironico, schivo, sembrava non darsi importanza nelle trasmissioni nelle quali si parlava di cinema, spesso addirittura era assente. Insomma, noi gli dedichiamo la nostra puntata perché è un omaggio dove alla sua genialità. Luciano Salce nasce a Roma il 19 settembre del 22 da una famiglia borghese, benestante, però la madre purtroppo muore subito dopo il parto, colpita da febbre puerperale. Il padre è molto giovane, non è in grado di occuparsi del figlio, per cui Luciano viene cresciuto dalla nonna. A 10 anni lo mandano in collegio dai gesuiti a Frascati e lì rimane 8 anni fino a quando finisce il liceo classico. Tutto sommato lui però in collegio ci sta bene, perché può coltivare la sua passione, quella che ha fin da piccolissimo, il teatro. Partecipa a diversi spettacoli anche come protagonista. Nel 40 torna a casa, il padre gli impone di iscriversi all'università, a giurisprudenza, però è una forzatura per lui. A 4 esami dalla laurea lascia gli studi e nel 42, in pieno conflitto, si iscrive all'Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D'Amico, quella, per capirci, quella dalla quale sono usciti tutti i più grandi attori e registi dell'epoca: Anna Magnani, Paolo Stoppa, Ave Ninchi, Haroldo Thieri, anche Andrea Camilleri, che sarà un grandissimo regista per molti anni prima di cominciare a scrivere e di esplodere con la saga del commissario Montalbano. E a scuola lui ha dei compagni destinati a grandi cose, fa amicizia soprattutto con Vittorio Gassman, ma ci sono anche Manfredi, Caprioli, Tino Buazzelli, Rossella Falk. C'è una loro amica che non riesce a entrare all'Accademia, viene scartata perché non è ritenuta idonea. Quella loro amica si rifarà alla grande, perché si chiama Franca Valeri. Formano un bel gruppo affiatato. Sta arrivando la parte cruciale del conflitto. Luciano Salce viene richiamato al servizio militare nel 43 assieme a Vittorio Gassman. L'8 settembre, il giorno dell'armistizio, viene catturato dai tedeschi, che lo deportano in un campo di prigionia in Germania, dove rimarrà per 2 anni. Da lì tornerà segnato non solo nello spirito, ma proprio anche nell'aspetto esteriore. Il falco e il gabbiano. Luciano Salce si trova prigioniero dei tedeschi in Germania, in un campo di soldati italiani. Siamo nel 1943. Resiste alcuni mesi, nel 44 decide di tentare la fuga, però il tentativo fallisce e la situazione precipita, perché lui viene spedito a Dachau, in un vero e proprio campo di concentramento. Si racconta addirittura che in questo campo di concentramento gli avessero strappato una protesi di denti d'oro che lui aveva dovuto mettere in seguito a un incidente, e che il suo sorriso particolare, la sua faccia un po' storta, derivasse proprio da questo. Non so se è vero, ma quello che è certo è che da Dachau e da posti del genere non si esce indenni. Poi il conflitto mondiale termina nel 45 e lui, Salce, inizia a collaborare con la Rai, scrive copioni, fa anche l'attore. Il suo esordio cinematografico è del 46, interpreta il ruolo di un ufficiale nel film Un americano in vacanza di Luigi Zampa, con Valentina Cortese, con Paolo Stoppa e Adolfo Celi. Nel 47 si diploma in regia, parte in tournée con la compagnia di Evi Maltagliati e Vittorio Gassman, gira l'Italia, poi lavora con Luchino Visconti, con Giorgio Strehler. Insomma, è anche meno difficile diventare dei grandi quando tutti i tuoi compagni d'avventura sono gente di questo livello. Poi crea un trio comico con Alberto Bonucci e il grande Vittorio Caprioli, un trio di cabaret, diventano famosi, si chiamano i Tre Gobbi, sono attori colti, parlano diverse lingue e possono esibirsi, e lo fanno anche all'estero, prima a Parigi, poi vanno in Brasile, dove hanno modo di collaborare con Adolfo Celi, che, lo sappiamo, si era appassionato talmente tanto del Brasile che ci aveva vissuto a lungo e aveva fondato una compagnia teatrale a San Paolo. Comunque, i Tre Gobbi continuano ad avere successo. Nel 54 Bonucci se ne va e subentra Franca Valeri, che poi sposerà Vittorio Caprioli, e i tre, Valeri, Caprioli e Salce, cominciano a fare anche diversi programmi radiofonici. Intanto anche Luciano Salce si sposa con Iole Bertolazzi, che ha conosciuto in Brasile. Lui però ha sempre in mente la regia, prosegue con gli spettacoli teatrali, però attende la grande occasione nel cinema. Finalmente nel 60 esordisce con il film Le pillole di Ercole e sceglie due attori a caso, Nino Manfredi e Vittorio De Sica. Oh, caro il mio dottore, anzi, caro Nino! Allegro, colonnello! Chiamami papà! Ma sì, capisco l'allegria, ma mi pare esagerato. T'ha detto niente la mamma? Quale mamma? Tua suocera! Ho detto, è mia figlia! La figlia del colonnello! Dobbiamo festeggiare! Ov'è la mia piccina? Sono 20 anni che la cerco! quando si dice che la vita è romanzo. Il 61 è un anno importantissimo, non solo per Salce come regista, ma per tutto il gruppo che lavora con lui al nuovo film, perché si tratta di un vero e proprio capolavoro, è Il Federale. Lui lo scrive assieme a Castellano e Pipolo, lo interpreta Ugo Tognazzi, c'è una Stefania Sandrelli quindicenne, un film meraviglioso che segna l'esordio come compositore di colonne sonore di un certo Ennio Morricone, ed era stato proprio Salce a volerlo. Buca! Sasso! Senta, amico, lei conosce il mio nome, ma io il suo no. Ehi, insomma, lei come si chiama? Lei chi? La mia ragazza? Ma no, lei! Ah, io? Voi allora? Sono 10 anni che in Italia usiamo il voi e ancora non lo sapete? Buca con acqua. Mi chiamo Primo Arcovazzi, sono nato a Cremona nel mese di luglio, il mese in cui è nato Mussolini. Io invece non ho avuto questo onore, sono nato in maggio. Ah, il mese degli asini. Squadra che vince non si cambia, Salce ne è consapevole. L'anno successivo, nel 62, ripropone Tognazzi con Castellano e Pipolo in un altro grande successo, La voglia matta. È un film molto interessante sul gap generazionale, c'è una giovanissima Catherine Spack e Tognazzi è il quarantenne che casca vittima delle grazie di una Catherine Spack che era veramente meravigliosa in quegli anni. E nella voglia matta Tognazzi dà veramente il meglio di sé, forse perché si sente molto vicino a un ruolo del genere. Sa cosa di bello la sua fidanzata? La coscia solida e la vita stretta, però col lombo massiccio. Complimenti. Ma dico, si è offeso? No. Non me l'ho perso di vedere. Ma si figuri. No, dico il Berghetti. No, non se la vorrà mica sposare, vero? Beh, una mezza idea ce l'avevo. Ascolti me, Alberghetti, non si sposi. Mai mettere la donna sul piano sentimentale, sempre sul piano orizzontale, come me. Poi invece Salce viene meno quello che scrive nella sceneggiatura, cioè lui le donne non le mette solo sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale, sentimentale, e anche sui gradini di una chiesa o di un municipio, perché sul set conosce l'attrice Diletta D'Andrea, si innamora di lei, lascia la prima moglie Iole, e da Diletta D'Andrea nel 66 Salce ha anche il suo unico figlio Emanuele, che poi è diventato regista e attore come il padre. E in quegli anni Salce comincia a apparire spesso in televisione, piace alla gente, gli viene proposto di partecipare al varietà di punta della Rai, Studio 1, scritto da Castellano e Pipolo, diretto da Antonello Falqui, presentato da Mina. A affiancarlo in queste sue scenette divertenti, spesso dissacratorie, c'è un altro grande nome dello spettacolo italiano di quegli anni, Lelio Luttazzi. Hai saputo la notizia di quel vecchietto che è stato folgorato dall'alta tensione? Sì, e tu? Hai saputo la notizia di tutti quei vecchietti che sono rimasti folgorati dalla bassa pressione che avevano? Che i vecchietti hanno questa bassa pressione. Sono vecchietti, hanno bassa pressione. Ecco, vedi, Lelio, purtroppo le battute hanno delle regole precise e che se non si osservano vanno a male. Quindi è una questione proprio di ritmo e sì, anche di rima, ti arrivo a dire. Se non la dici precisa non funziona. Sì. Battuta, hai saputo la notizia di quel vecchietto folgorato dall'alta tensione? No, ma ho saputo la notizia di quei vecchietti folgorati dalla bassa pensione. A pensione. Non si può, se non la dici così. E in quegli anni lui è amatissimo dal pubblico, e i programmi che lui fa vengono seguiti con grande partecipazione, però sarà comunque con il cinema, con i suoi film, che Salce saprà regalare agli italiani qualcosa di veramente unico che rimane ancora oggi. Il Falco e il Gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è il grandissimo regista e attore Luciano Salce, che rappresenta nel panorama dello spettacolo italiano una figura eclettica, anomala, un artista poliedrico, un grande attore, uno sceneggiatore, un autore di canzoni, un regista di immenso talento. A partire dal Teatro dei Gobbi, lì aveva dato vita con Franca Valeri e Vittorio Caprioli a un trio che ebbe un grande successo interpretando ruoli divertenti e dissacratori, ha realizzato spettacoli teatrali memorabili. E poi Salci ha partecipato a diversi show televisivi di grande successo, ha firmato la regia di film che hanno raccontato i pregi e i difetti della nostra società contemporanea, una commedia all'italiana neorealista fatta con il sorriso e con l'ironia, insomma cose che oggi ci scordiamo. Insomma, Salci ha contribuito in maniera decisiva alla storia dello spettacolo italiano con la sua grande ironia. E nel nostro racconto siamo arrivati al 62, un altro anno chiave nella carriera di Luciano Salce, perché dopo il successo della Voglia Matta viene chiamato a dirigere La Cuccagna, un film scritto da Alberto Bevilacqua e da Goffredo Parise, cioè avete capito chi scriveva i film in quegli anni. E lì esordisce come attore Luigi Tenco, che di lì a pochi mesi esploderà come fenomeno musicale anche col suo successo Mi sono innamorato di te. Nel film Tenco canta la canzone La ballata dell'eroe, composta per lui dall'amico Fabrizio De André, ma canta anche due canzoni bellissime composte proprio da Luciano Salci e da Ennio Morricone, Tra tanta gente e Quello che conta. Ormai siamo soli nel mezzo del mondo. E arriviamo al 1967, l'anno in cui Salce realizza la versione cinematografica della commedia teatrale Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg, e l'aveva già portata in scena al teatro. Il film è interpretato da Monica Vitti, Giorgio Albertazzi e Maria Grazia Buccella. È ancora una commedia all'italiana, come i film precedenti, insomma il genere nel quale Salce ha fatto scuola. Ma nei due anni successivi Salci realizza due film assolutamente anomali nel panorama cinematografico italiano, due pellicole di satira politica, di denuncia di un sistema corrotto. Il primo è La pecora nera con Gassman, che interpreta il ruolo di due fratelli gemelli, uno un politico irreprensibile e l'altro un faccendiere che ovviamente farà molta più carriera del fratello e finirà, il fratello, quello buono diciamo, finirà in manicomio. L'altro film è Colpo di Stato, che tocca un nervo scoperto perché appena uscito viene tolto dalla circolazione, tornerà alla luce soltanto nel 2004 alla Mostra del Cinema di Venezia. In questo film Salce ipotizza che il Partito Comunista Italiano vinca le elezioni ma si rifiuti di governare al posto della Democrazia Cristiana. In base ai risultati delle elezioni, le elezioni le avete vinte voi. Il potere è vostro e queste poltrone sono vostre e noi democraticamente ve le cediamo. Col cavolo! Come sarebbe a dire? Sarebbe a dire col cavolo che noi accetteremo quello che voi troppo gentilmente ci offrite. Ma come? Le elezioni le avete vinte voi. Col cavolo, abbiamo vinto le elezioni. Il successo definitivo arriva per Luciano Salce nel 69, un successo non solo di pubblico, ma anche proprio personale come regista, perché a volerlo, per il suo film di Natale, perché allora i film di Natale erano belli, erano dei capolavori che duravano nel tempo, a volerlo per questo film è Alberto Sordi, che lo chiama a dirigere un suo soggetto, il professor Dottor Guido Tersilli, primario della Clinica Celeste convenzionata con le mutue, un titolo lunghissimo che è il sequel del fortunatissimo Il medico della mutua uscito l'anno prima, e anche questo film, come quello precedente, ha un successo enorme. Lampredi, con quello che mi dà la tua mutua io non ci pago neanche il cambio delle lenzuola. Perché le altre mutue? E sono più migragnose della tua. Oh, io a Villa Celeste c'ho 11 medici, 26 infermieri, 18 fra portantine e portantine, 12 monache, 6 persone in cucina, 4 in lavanderia, 3 uomini di fatica, 2 autisti e 2 giardinieri. Villa Celeste è costata 1 miliardo. Lascia fare quello che dicono certi giornali, che io il terreno l'ho avuto dalle piccole ancelle dell'amore misericordioso. 8.000 lire al metro me l'hanno fatto pagare quelle figlie di Maria. Io a Villa Celeste ci ho fatto i capelli bianchi. Beh, ma allora ti tingi. Scherza tu. È un film meraviglioso, se non l'avete visto vergognatevi, andatelo a vedere. È un anno particolare questo 1969 per Salce. Da un lato ormai è un artista di grande successo, è un regista ricercato da tutti, dai più grandi attori e produttori del momento. Dall'altro la sua vita privata si sta sgretolando, come spesso accade. La moglie Diletta D'Andrea lo lascia per un altro uomo, ma non uno qualsiasi, lo lascia per il suo amico Vittorio Gassman. Lei lascia il marito, si trasferisce a vivere con Gassman, quindi Emanuele, che ha 2 anni, crescerà in maniera conflittuale con il mattatore Emanuele, il figlio di Salce. I rapporti tra i tre rimangono civili, perché sono persone colte e intelligenti, ma certo è uno stravolgimento nella vita di Salce, e lui reagisce nella maniera migliore, si butta ancora di più nel lavoro. Nel 70 recita in molti film: Homo Eroticus, Amore Mio Non Farmi Male, La Signora È Stata Violentata, torna anche in televisione con un nuovo programma, il mitico Senza Rete. Tra il 70 e il 74 Salce dirige ancora 2 film, Basta Guardarla con Mariangela Melato, è un film molto strano che si chiamava La Mia Cara Mamma Nel Giorno Del Suo Compleanno, un film sui rapporti edipici, diciamo. È un film che è comunque importantissimo perché avviene una conoscenza destinata a fare tante cose, e la conoscenza è quella tra Salce e Paolo Villaggio. L'anno dopo, nel 75, Salce scrive con Villaggio il soggetto di un film tratto da un libro di Villaggio, che ebbe un successo incredibile. Il film e il titolo del libro è lo stesso: Fantozzi. Apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini. Calboni. Scusi, posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantocci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Potemkin è una cagata pazzesca! E per parlare di Luciano Salce abbiamo una delle grandi donne del Falco e il Gabbiano, perché le abbiamo dedicato recentemente una puntata. Insomma, è un'attrice che nel mio cuore, ma è nel cuore di tutti voi, sto parlando di Anna Mazzamauro. Buongiorno signora. Buongiorno signore. Allora, noi stiamo parlando di Luciano Salce. Che tipo era Salce nella vita? Allora, io non amo parlare bene delle persone soltanto perché non ci sono più, perché sono sincera. Certo. Non devo parlare male di Luciano, sarebbe ingiusto e inopportuno, e poi non ci sarebbero dei motivi. Ma nei suoi confronti ho sempre un senso di rattrapimento osseo, perché non essendo bella, lui non mi ha mai, come si può dire, evacuato, come si può dire? Perché Luciano amava le belle donne, ne era circondato dalle madri che, pur di vedere la propria figlioletta, non dico protagonista, ma addirittura comparsa nel film di Luciano, si sarebbe prostituita, è il vero senso della parola. Per certe donne, come nel caso mio, era preclusa questa possibilità. Quindi Luciano, sì, buongiorno, buonasera, una volta gli ho regalato persino un profumo, non è successo niente, non si è messo manco il profumo. Ha continuato a fregarsi di me, però a fregarsene dal punto di vista fisico, sì. Ma non certo artistico, perché anzi era eccellente nei miei confronti. Quando mi faceva i primi piani, veniva vicino a me, mi diceva: sei contenta che ti ho fatto un bel primo piano? Sì, io, figurati, è una vita che gioco su questa cosa. Indubbiamente io non ho tette al vento e culinaria, per cui, non culinaria nel senso di cucinare, in aria, per cui non posso essere definita bella nel senso tradizionale della parola. Ho tutti i difetti possibili e immaginabili, che però in teatro da non lontano sembro una normale. No, non è così. Anna, sei stata gentilissima, un abbraccione. Passa attraverso il telefono, passa l'abbraccio? L'abbraccio passa. Un bacione. Grazie infinite, mi hai sollevato lo spirito. Grazie. Ciao. Sul finire degli anni 70 Salce firma un'altra regia importante, L'anatra all'arancia, con Tognazzi e Monica Vitti. Poi torna in televisione con due programmi di grande successo, Buonasera con e il mitico Ieri e Oggi, dove lui è un raffinato padrone di casa che si intrattiene con dei personaggi del mondo dello spettacolo. Era una cosa bellissima Ieri e Oggi, due persone sedute che guardavano dei filmati, e Salce era veramente un mattatore da questo punto di vista. Nell'82 torna al cinema con Vieni avanti cretino, un tributo alla comicità di Avan Spettacolo. Il protagonista è un altro attore che farà molta strada, Lino Banfi. E mi sono sfoghetto, e che roba è? E non ti fanno queste cose? Abbiamo speso 87 milioni per fare quei camerini, tutti lussuosi, tutti belli hollywoodiani, e a me che mi hanno chiuso qua dentro è questa cosa brutta, schifosa, che sembra un cesso. Che sembra? No, che sembra? Che è un cesso. Vi pare onesto? Meno male che c'è Luciano Salce. Luciano Salce è una persona squisitissima, con lui lavoro veramente volentieri. Si è creata una specie di simbiosi fra me e Luciano che è la fine del mondo, veramente. Poi vedrete, vedrete. Perché ha capito la mia provenienza, la mia cultura, la mia intelligenza. Vieni avanti, cretino! Nell'83, tra aprile e giugno, dirige e conduce Gran Varietà su Rete 4 con Loretta Goggi e Paolo Panelli. Poi però, nell'agosto successivo, mentre si trova a Salso Maggiore Terme in qualità di presidente della giuria di Miss Italia, viene colpito da un ictus cerebrale. Si riprenderà parzialmente, ritornerà a lavorare sia in teatro sia al cinema, realizzando ancora un ultimo film, Quelli del Casco, con Panelli e Renzo Montagnani. Poi nel 1989 le sue condizioni si aggravano, il 17 dicembre morirà di un attacco cardiaco. Ma noi abbiamo ai nostri microfoni il figlio di Luciano Salce, Emanuele Salce, che in diverse interviste ha detto che ha fatto mille lavori pur di non seguire le orme paterne, ma alla fine non ce l'ha fatta, e non ce l'ha fatta per nostra fortuna, perché è diventato attore e regista. Ecco, io comincerei chiedendoti se lui era una persona spiritosa anche nella vita. Sì, immagino. Assolutamente, assolutamente, perché avendo vissuto dei drammi, essendo stato prigioniero di guerra, cioè l'ironia quando si dice salvare il mondo, un fondamento di vero ce l'ha. Papà era una persona molto... riusciva a cogliere veramente l'aspetto più drammatico di qualsiasi vicenda, insomma, senza per questo essere superficiale o voler necessariamente sempre giocare in difesa. Senti, se fosse destino che di ogni persona rimane una cosa, cosa dovrebbe rimanere di Luciano Salce, secondo me? Una cosa, la cosa più grande che ha fatto. Io lo dico senza, come dire, no, ma credo che sarebbe d'accordo, perché... No, certo, ma no, ma della, beh, certo, ognuno di noi poi la cosa migliore che ha fatto, sangare, diciamo, quanto espresso... papà di buono ha fatto artisticamente, ma insomma, guarda, io penso che quello che papà di più bello ha fatto sia stato l'aver fatto tutto nel modo in cui l'ha fatto. Sono assolutamente d'accordo, io sono un fan di Luciano Salce, ma sono un fan umanamente delle persone che sono riuscite a fare più cose nella vita, perché vuol dire che erano degli irrequieti, dei curiosi, dei cervelli vivi e vivaci. Emanuele, grazie, sei stato gentilissimo e complimenti, in bocca al lupo per tutto. Grazie anche a te. Ci sono storie a volte sconosciute o un po' dimenticate di persone che nella loro vita hanno saputo dare un colpo d'ala, hanno saputo volare in alto. E poi ci sono storie di persone che hanno fatto tante cose, cioè che hanno volato in alto attraverso cieli di colori diversi, e sono ovviamente le mie preferite. Ognuno di noi nella vita può cadere, ma può anche darlo quel colpo d'ala che lo porta a volare in alto, come il falco o il gabbiano. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, oppure sul nostro sito www.radio24.it, oppure venite a cercarmi sui miei social Facebook, Twitter e sui nostri social, insomma, se volete, lo sapete, mi trovate. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.